di questi 900.000 euro, che sono residui attivi doppi, in doppia cancellazione, diciamo 2008 e 2009, fanno parte di questi 4.400.000 euro, sono lì dentro, sono quelli, ne fanno parte comunque, ci sono. Anche quelli che sono stati già tolti a suo tempo, perché se noi prendiamo, perché se noi prendiamo anche la deliberazione pratica precedente a questa, erano stati tolti 4 milioni 300 e qualcosa, con questa diciamo rivisitazione, chiamiamola così, è 4 milioni e 4, così la stessa cosa in pratica è successa per i residui in pratica passivi. Vediamo se ci sono altri colleghi che vogliono fare delle domande, cortesemente, mi sembra che sia stato dato spazio ai colleghi consiglieri che sono intervenuti prima. Collega consigliere Iuppa, la parola, prego. Tessac, io ho qualche domandina più semplice, diciamo, perché non sono in grado di dare una lettura così tecnica delle carte, però qualcosina. Dicevo, le rifaccio intanto la stessa domanda che le ho fatto per il 2008, e cioè, ad oggi lei è in condizioni di dirmi qual è lo stato di riscossione dei residui attivi del 2009 ed evidentemente degli anni precedenti, perché vanno evidentemente a cadere. È ovvio che io posso in pratica disquisire su tutti i residui attivi che fanno capo al settore di cui io sono responsabile, dal primo all'ultimo. Di fatto, se lei nota, nei vari residui, lo constateremo con i prossimi lavori e anche con i prossimi in pratica rendiconti, ogni singolo accertamento, sia che sia un provento dell'acquedotto, sia che sia energia elettrica o anche un tributo di qualsiasi genere, non è mai stato cristallizzato, cioè non è un residuo fermo. Questo per rispondere anche al consigliere Liberto, il quale sostiene che non mi conviene cancellarlo, forse non comprende bene cosa significa fare una contabilità che come la si deve fare. Quindi cosa significa questo? Che io cancello il residuo nel momento in cui, ad esempio, c'è stata l'attività di riscossione che mi ha portato in decremento il residuo attivo all'inizio. E questo lo si può vedere da tutte le attività che fanno anche in pratica gli stessi legali per il recupero dei crediti. La domanda è qua. A che punto è la riscossione? È la riscossione di questi in pratica residui, allora, per quanto riguarda le entrate e patrimonio, forse non ho compreso bene la domanda. Le entrate, allora, la movimentazione, la movimentazione del 2009 rispetto in pratica al 2008 c'è stata e lo si vede in pratica dai vari. Ma anche oggi, se nel momento in cui io andrò a fare il rendiconto al 31 dicembre 2011, questi residui hanno subito un'ulteriore variazione in decremento. In decremento, quelle da quantificare di volta in volta si fanno così, non lo so quantificare, però aspetti, è tutta l'attività di riscossione. Perché rischiamo di ingarbugliare l'argomento, era ancora più semplice. Non c'è dubbio, me ne rendo conto anch'io, che certamente per fare meglio il 2011 c'è stato un decremento, da diminuire devono andare questi residui attivi, mi auguro. Il punto era, se lei era in condizioni di dirmi qual è il responsabile della sua area, ma anche quale redattrice facente funzioni del settore economico finanziario, che poi è quello che li racchiude tutti, se era in condizione di dirmi ad oggi i residui attivi del 2009 a che punto sono con la loro riscossione. La risposta potrebbe essere molto più semplice: sì, sono in condizione, no, non sono in condizione, io non ne faccio sì, una polemica. Io le ripeto, per quanto concerne in pratica il settore dei tributi, le posso dire che stato è la riscossione. Abbiamo tutti i ruoli coatti dati alla Serit, quindi ad Equitalia. Per le entrate patrimoniali abbiamo gli incarichi in pratica legali, quindi decreti ingiuntivi in pratica e quant'altro, che vengono comunicati di volta in volta anche dagli stessi legali, per cui questi in pratica subiscono un decremento nel corso del tempo. Forse non era questo. Prego, sindaco. La domanda del consigliere Iuppa rispetto è anche una domanda che ha fatto, mi pare, il consigliere Barranco tempo fa con un ordine del giorno specifico. Cioè comprendere. Avete ragione, secondo me va fatto un consiglio comunale ad hoc, una serata per comprendere di questi residui attivi alla data del 31 dicembre, che la domanda del consiglio di Iuppa è importantissima rispetto al fatto. Noi abbiamo dei residui cristallizzati al 2009, questi residui al 2009 ad oggi che tipo di movimentazione hanno fatto? Evidentemente i residui rappresentano, sono di tantissime voci, sono dall'ICI alla Tarsu, al servizio acquedotto, purtroppo c'è ancora il servizio elettrico che è stato ceduto a novembre, ci sono tantissimi, cioè residui di tantissime voci, onere urbanizzazione e tantissime altre cose. Che tipo di attività facciamo? Ecco, sarebbe troppo lungo discuterne questa sera in sede di rendiconto. La risposta che mi sento di fare oggi, io mi prendo la responsabilità per questi 5 mesi, tant'è vero che con la dottoressa Sergi è allo studio ed è già in attività qualcosa, stiamo scrivendo alla Serit, stiamo dicendo che non può andare avanti così, è possibile che noi altri revochiamo i ruoli alla Serit perché non possiamo stare in questa situazione senza cassa e con un'anticipazione di cassa al massimo. Stiamo cercando di porre rimedio anche per recuperare, ecco, rispetto all'avviso di accertamento per chi non ha pagato o anche per chi ha evaso totalmente, però ripeto, la risposta qual è? Io non sono soddisfatto di come avviene la riscossione in questo comune, ma non è che non sono soddisfatto rispetto all'attività del responsabile del servizio o dei ragazzi o anche dei funzionari che lavorano nel servizio tributi. Non sono soddisfatto perché secondo me, ripeto ancora una volta, negli anni, e l'ho detto poco fa e concludo, si è persa una credibilità dell'ente che non ci mette nelle condizioni ormai di sollecitare gli utenti, i cittadini a pagare. Cioè i cittadini non ci credono più che il Comune può realmente, ecco, sanzionare chi non paga. Questo è l'obiettivo che io ho da qui ai prossimi mesi, recuperare questa credibilità. Cioè non è possibile, faccio un esempio e concludo veramente, che io pago al lato Ecologia e Ambiente gli interessi per i 3,5 milioni che devo dare al lato e i cittadini che non mi pagano la Tarsu non pagano gli interessi al Comune sulla Tarsu che non viene pagata. Cioè qui non c'è una rispondenza. Per cui i residui rispetto al 2009 vanno diminuendo, ma con molta lentezza, cioè non c'è una capacità veloce di riscossione. Questo è un argomento che riguarda il Consiglio Comunale, è qualcosa che dovrà farsi carico sia non solo l'amministrazione ma anche il Consiglio, perché noi abbiamo necessità di recuperare al più presto liquidità. Consigliere Uppa doveva fare altre domande. Sì, avevo un paio di prego, domande. Prego. E poi concludo. Ho letto, ma lo si legge in tutte le carte, prendo la determina del responsabile del servizio finanziario, dove al punto 3 dice individuare residui attivi cancellati come allegato eccetera per un importo di 4.400.614,19. La domanda che le faccio, e la stessa domanda poi gliela porrò, glielo anticipo anche per i residui passivi perché il contenuto è lo stesso, è: questo importo di 4.400.614,19 si riferisce ai soli residui attivi o questa cifra comprende anche le maggiori entrate della competenza del 2009? Ma, tengo sostanzialmente contiene anche dati di competenza. Nell'ambito in pratica del quadro dell'avanzo anche di amministrazione abbiamo tanti residui attivi che provengono dalla gestione al residuo e quelli che provengono dalla gestione a competenza. Allora, evidentemente le faccio la stessa domanda per i residui passivi, devo ritenere che la risposta è la stessa, anche per i residui passivi questi 4.510.000 eccetera contengono anche le minori spese e quindi contengono anche cifre di competenza sostanzialmente. La differenza lo si vede in pratica nel tabulato dove ci sono scritte variazioni, perché laddove c'è insussistenza si facciamo alla gestione dei residui, laddove c'è scritto rideterminazione invece è una variazione che è avvenuta a competenza. Io questo, al di là dei numeri in sé, devo dirle, dottoressa, che ritengo questo metodo di accertamento dei residui attivi un metodo un attimino poco attendibile, però poi questo lo illustrerò nella mia discussione. Sì, la Corte ha chiesto di riaccertare. Non solo quelli residui, no. Ma anche quella competenza. Io non voglio. No, io l'ordinanza me la sono letta. Peraltro parto proprio dall'ordinanza per poi studiarmi le carte, perché quello è il documento fondamentale da cui dobbiamo partire. Poi lo spiegherò meglio quando poi interverrò. Domande? Grazie consigliere Uppa. Ci sono altri consiglieri che vogliono parlare? Consigliere Alberto, vediamo se ci sono altri consiglieri prima di reintervenire lei, perché già voglio capire tre volte. Io personalmente la volontà dell'amministrazione, cioè ho tracciato un preciso percorso. Fine 2008 ci sono dei capitoli, questi che abbiamo indicato, che erano a zero. Ci ritroviamo la cancellazione dei stessi residui del 2008 nel 2009, cosa che per noi non è ammissibile. La sommatoria complessiva, compreso questi residui che secondo noi non si potevano togliere, ha generato quei 4 milioni. Ora, il mantenimento di queste cifre, cioè l'amministrazione intende mantenerle o vuole applicare la giusta correzione affinché si dia verità alla somma che viene posta nella delibera? Perché se così non è, dico, questa è una questione per cui diciamo noi gradiremmo anche poter dare la nostra collaborazione. Infatti ho detto, se vogliamo sospendere un attimo e li rivediamo insieme, dico, li possiamo anche rivedere, avete la nostra disponibilità. Se poi è perché la proposta sta arrivando da questi banchi, per cui c'è una specie di, come dire... Certo, allora, si è rivolto a lei, signor. Il rendiconto per noi non presenta difficoltà, l'abbiamo approvato in giunta, lo proponiamo al Consiglio, quell'aspetto figurativo. Però siccome mi è stato chiesto, e penso è possibile farlo perché c'è una nomina ufficiale come consulente a titolo gratuito per quanto riguarda il bilancio da parte del dottore Fiasconaro, che vuole intervenire, io do la parola al dottore Fiasconaro precisando che quello è un aspetto figurativo, che non c'è nessuna difficoltà, non c'è nessuna problematica di questo tipo. E per quanto riguarda invece il consigliere Iuppa, io in punta di piedi, la Corte dei Conti ci ha chiesto, riaccertate oltre che i residui degli anni precedenti, c'è scritto nell'ordinanza, la possiamo leggere, anche quelli a competenza. Noi abbiamo fatto questo riaccertamento per gli anni passati e anche per quella a competenza. Ripeto, è scritto nell'ordinanza della Corte dei Conti e lo ricordo perfettamente perché è stato uno dei punti che si è stato sottolineato. Se il Presidente... Dottore Fiasconaro, prego. Sì. Sì, scusi, Presidente. Io voglio rispondere. Posto che la Corte dei Conti ci ha chiesto anche di fare un riaccertamento sulla competenza, però nelle determine era doveroso, io ritengo, e distinguerlo, certo, perché qua parliamo di negli allegati non c'è scritto, signor sindaco, mi scusi, io non ne voglio fare polemica, però le devo dire, e di questa cosa non se ne accorge nemmeno il collegio dei revisori. Per quanto lei mi vuole dire che numericamente il dato di 4 milioni e 400 sia fedele, è un dato, ma non sono residui attivi, non sono tutti residui passivi, non possiamo parlare, la terminologia, la forma è importante, non possiamo parlare, dare un nome a delle cifre che quel nome non meritano, se sono riaccertamenti di differenziale della competenza, chiamiamoli in questa maniera, distinguiamoli, non possiamo dire che abbiamo tolto 4 milioni e 400 mila euro di residui attivi, perché non sono 4 milioni e 400 mila euro. Senza che sia un paragone, senza che sia un confronto tra me e te, nel totale generale tu troverai la voce di determinazione e quella è la competenza, e la voce in sussistenza e quelli sono i residui degli anni precedenti, per cui la differenziazione che non trovi nella determina la trovi nel totale dell'elenco sintetico dove c'è la rideterminazione e l'insussistenza. Però di meno Fiasconaro, si accomodi. Grazie Presidente, signori consiglieri, a proposito del problema tecnico che è stato rappresentato in ordine a quei 4 residui, vorrei aggiungere che l'obiettivo del riaccertamento è la verifica del mantenimento, quindi delle ragioni del mantenimento dei residui. Fatto questa attività nel 2008, si è riscontrato che alcuni residui non avevano più il titolo per poter essere mantenuti. Col 1 gennaio del 2009 abbiamo ricominciato a fare di nuovo tutto il riaccertamento, perché è evidente che con il 1 gennaio del 2009 le ragioni che erano state, cioè al 31 dicembre del 2000, le ragioni che erano state, che avevano portato alla cancellazione del residuo nel 2008, possono aver trovato una loro modifica. Nel fare questa attività il risultato è che anche se quel residuo apparentemente possono apparire come una duplicazione, di fatto non sono una duplicazione. L'attività che ha svolto l'ufficio non è stata quella di quantificare quali sono i residui e stabilire se devono essere 7 milioni, 4 milioni o 3 milioni. È stata quella di mantenere i residui che hanno il titolo per essere mantenuti. Quindi può essere che i 4 milioni e 400 mila euro di residui attivi cancellati sono 4 milioni e 400 figurativi. Nella sostanza sono 3 milioni e 900 se facciamo riferimento agli accertamenti che erano stati fatti prima del 31 dicembre del 2008. Però, siccome erano stati cancellati, quindi risultano essere cancellati, tecnicamente è un negativo che viene a evidenziarsi nel prospetto, perché non si può fare diversamente. Questo è il residuo che deve essere cancellato. Vorrei chiudere anche sul discorso della residuo e competenza. Il testo unico non fa differenza tra il residuo proveniente dalla gestione residuo e proveniente dalla gestione competenza. Parla e dice che cos'è il residuo, per cui è tecnicamente una distinzione che vengono fatte da parte, diciamo, delle procedure e degli atti amministrativi, ma quando si fa il riaccertamento del residuo si fa verificando l'esistenza o meno dei titoli, a prescindere se sono di provenienza della gestione del residuo oppure di competenza. Grazie, dottore Pescano. Il microfono. Vorrei dire ai colleghi consiglieri che poi c'è l'intervento di carattere più politico. Penso che sul piano delle domande. Lei ha una proposta? Vuole formalizzare una proposta? Non deve formalizzare la proposta. Poi può essere. Collega Barranco, un attimo. Quindi, e allora io a questo punto desidero. Do la parola al consigliere Barranco. E allora, veda signor Sindaco, questa sera lei è stato abbastanza illuminante per tutti noi, e però le devo dire che lo poteva essere di più nel 2008, nel 2009, il 2010 che non è stato approvato, il 2011, poteva essere illuminante già lì, visto che lei ha fatto un momento fa politica. La politica la faccio pure io. Allora le dico questo, signor Sindaco. Avete approvato il rendiconto 2008 e 2009. Sì, io così so, ho saputo. Tranne che è sbagliato. Ditemi cos'è che è stato approvato prima, perché così anche faccio mente locale io stesso. Non lo so quello che era stato approvato, ma qualcosa è stato approvato del rendiconto. Allora io dico questo. Come ho sempre detto in queste sere che si parla di bilancio, io non ci capisco più nulla, perché è la verità questa. E le dico, signor Sindaco, che anche i cittadini non capiscono nulla questa sera, perché gli abbiamo confuso sempre di più le idee. Se la consigliera Messina questa sera qui ha portato dei dati di fatto, dei numeri, e entriamo in contraddizione tra quello che dice il responsabile del servizio, la dottoressa Vacca, e quello che dice la professoressa Messina, anche se sono due ruoli completamente diversi. La professoressa Messina qui dentro è un politico, la dottoressa Vacca è responsabile di un servizio. Però io devo dire alla dottoressa Vacca e anche al sindaco non mi sono convinto di quello che voi avete detto. E perché non mi sono convinto? Perché ho capito una cosa, nella ultima sua frase ho capito che questi bilanci del passato sono stato solo uno strumento di lotta politica qui dentro. Perché io avrei potuto approvare quello che dice lei questa sera, signor Sindaco, e l'avrei approvato sicuramente per il bene della città, ma io non mi ci ritrovo in questo stato di fatto. Cioè, qui c'è a contrasto una idea sua, perché per me è una sua idea, visto che Patrizia Messina diligentemente ha dato dei numeri chiari e ha detto: ma si può veramente nel rendiconto 2008 cancellare e poi ricancellare nel rendiconto 2009? La dottoressa Vacca dice che si può fare. Siccome io di queste materie non ne capisco, quindi devo fare semplicemente un discorso politico. Quindi, veda signor Sindaco, io l'altra sera qui dentro a lei lo ho elogiato per quello che ha fatto per i fuochi. Questa sera purtroppo lei non mi ha dato la stessa chiarezza di quella del fuoco. Quindi, tranquillamente io le dico che, come non lo capisco io che sono qui dentro e quindi ho origlio con le orecchie, sento dire vari consiglieri quello che dicono, si figuri quello che capisce la città in questo momento, che lei dice che lo vuole fare per la città, ma anche Patrizia Messina lo fa per la città. Chi è che ha ragione, Patrizia Messina o lei assieme alla dottoressa Vacca? Facciamoglielo capire ai cefaludesi questa cosa, perché i cefaludesi sono stanchi, specialmente quando si tratta di materia di bilancio. E allora, a questo punto, signor Sindaco, io le dico una cosa: o si fa un chiarimento subito, cioè sospendiamo la seduta così come ha avanzato la proposta il consigliere Vincenzo un momento fa, e decidiamo se queste somme devono essere cancellate o nel 2008 o nel 2009 dopo. E allora io sono disponibile a continuare, altrimenti non vedo il motivo per cui devo stare qui dentro. Mi alzo e me ne vado, tanto lei c'ha una maggioranza ben composta, approvatevelo voi. Non abbiamo bisogno noi di aiutarvi ad approvare questo rendiconto, e la città questo deve sapere, perché noi ci siamo impegnati. Con lei abbiamo fatto una riunione qui dentro, abbiamo fatto una cronologia delle sedute che si dovevano fare pur di portare avanti queste cose che in tanti anni non sono state fatte. Però quando si tratta di numeri, e io ripeto, di numeri ne capisco poco, però questa sera qualche cosa l'ho capita, sentendo quello che ha detto la professoressa Messina e quello che ha detto la dottoressa Vacca, sono due cose a confronto. Quindi fateci capire meglio, magari sospendendo la seduta e vedendo di raggiungere un accordo che possa essere, come dire, simbolo del Consiglio Comunale che vuole proseguire in questi lavori e portarli avanti con serietà. Grazie. Consigliere Barranco, io la ringrazio. Le ricordo che eravamo in una fase di domande ancora, quindi il suo intervento... Vabbè, questo sono decisioni che prendere a lei, siccome lei ha fatto un intervento in natura politica, me ne ricorderò nella fase successiva, e quindi se ci sono altre domande, altrimenti continuiamo con gli interventi. Ci sono domande? Consigliere Cassata, prego. Allora, io credo di essere ripetitivo, e mi rivolgo sempre alla dottoressa Sergi, perché ripeto, ho le mie perplessità anche relativamente a questa deliberazione, perché per me la Corte dei Conti, persevero nella mia domanda, ha soltanto richiesto l'accertamento, il riaccertamento, l'esclusione di alcuni residui attivi. Per cui chiedo alla dottoressa Sergi se è confermata la domanda dell'altra volta, la risposta dell'altra volta, che questa deliberazione è legittima in quanto riguarda anche riaccertamento di attivi, residui attivi e di residui passivi. E un'altra domanda, Lei ha detto in l'altro giorno, l'altra sera in consiglio, ha detto che la Corte dei Conti, dopo cui è stata ascoltata, è in possesso della documentazione con cui ciascun responsabile del servizio ha motivato il mantenimento e o la cancellazione dei residui. Questa documentazione è nella disponibilità di questo consiglio? Domanda. E perciò poi la risposta. Mentre la dottoressa Vacca è stata confermata in toto la cancellazione dei residui attivi e passivi di cui alla determinazione numero 44 del 24/4/2010 fatta dal ragioniere Meli, o se nel procedere al riaccertamento a cui si è proceduto di alcuni residui, di questi sono stati riconsiderati positivamente, di quelli cancellati dal ragioniere Meli sto parlando. Il ragioniere Meli, forse non sono stato poco chiaro, il ragioniere Meli nella determinazione numero 44 del 24/4/2010 dava contezza di alcuni residui passivi. Il pubblico è pregato di mettersi nello spazio a lui dedicato, cortesemente. Sì, scusi, non può entrare nell'emiciclo, mi dispiace. Grazie. Nella determinazione 44 del 24/4/2010 il ragioniere Meli procedeva all'eliminazione di alcuni residui attivi. Dico, volevo sapere se questa cancellazione era stata confermata o era stato riaccertato e perciò reinseriti nel bilancio. Grazie. Allora, le cancellazioni che sono state in pratica già fatte a suo tempo, sia per quanto concerne i residui attivi e passivi e così come risultano in pratica in contabilità, non sono stati ovviamente toccati, perché se lo avessi fatto avrei avuto anche in quel caso un segno negativo. Quindi se sono state fatte a suo tempo e già risultavano in contabilità, non si è adoperato la seconda cancellazione. Sergi vuole rispondere? Sì, con riferimento alla prima domanda, come ho già detto nella seduta di riapprovazione del rendiconto del 2008, la Corte dei Conti nella sua deliberazione ha individuato delle criticità, soprattutto delle criticità relative ai residui attivi, ma ha anche chiesto di rivedere tutto il risultato di amministrazione. Ovviamente nell'operare il riaccertamento dei residui attivi i responsabili non potevano non rivedere anche le determine in toto inerenti ai residui passivi, e questo è legittimo in quanto il risultato di amministrazione è composto sia dai risultati dai residui attivi che dai residui passivi. Dunque anche questo è stato sottoposto alla Corte dei Conti nelle memorie del Sindaco, dicendo proprio l'operazione che è stata posta in essere, e lo stesso Presidente ha annuito, diciamo, nel momento in cui io relazionavo, perché è normale rivedere anche la parte passiva, altrimenti ci sarebbe uno squilibrio provocato proprio dalla mancata verifica anche dei residui passivi, laddove ce ne fosse stata la necessità, e in questo caso è risultato necessario operare perché qualche differenza si è trovata. Questo per quanto riguarda il primo punto, quindi a mio avviso è legittimo riaccertare la parte attiva e la parte passiva per avere un risultato di amministrazione veritiero. Per quanto riguarda invece, mi sembra, la seconda domanda sui documenti, tutti i documenti trasmessi dai responsabili anche al di fuori delle determine, in alcuni casi riportati nelle determine ma in altri casi con lettere, sono stati trasmessi con lettere dai responsabili, da quasi tutti, anche con un certo dettaglio, sono stati trasmessi alla Corte dei Conti, cioè le lettere che questo sono consiglio, sono in possesso di questo consiglio? Sì, alcuni casi sono state allegate alle determine, in altri casi no, sono stati riportati solo i risultati, ma le lettere sono state trasmesse alla Corte dei Conti. Sì, ma mi scusi se sono... Sono disponibili, sempre... certamente. Sono disponibili, perché non sono ancora in possesso di questo consiglio. Sono richiamati nelle varie note, anche nelle stesse determine, se dovessero servire... Le determine sono... Allora, le risultanze di quelle lettere, di quei chiarimenti, sono riportate nelle determine, dove ovviamente non c'è elencata la motivazione tassativa. Le determine sì. Signor Sindaco, non chiedo questo, io le determine ce l'ho tutte qui. Io chiedevo soltanto, siccome avevamo fatto un'istanza per ottenere chiarimenti sulle motivazioni dei residui attivi e passivi, per il motivo per il quale erano stati mantenuti e il motivo per il quale erano stati cancellati, siccome la dottoressa ha detto che questi documenti erano in possesso della Corte dei Conti, volevo sapere se fosse era stata una mia svista o se ero in possesso di questo consiglio. Il consiglio comunale nella scorsa seduta ha chiesto di trasmettere anche i documenti in possesso. Quelli che erano in possesso noi li abbiamo allegati alla documentazione. Gli altri sono stati, se non c'erano documentazioni particolari, motivazioni particolari prodotte dai responsabili, abbiamo prodotto solo le termine che risultano agli atti del consiglio. Allora, è possibile allora prima dell'approvazione del rendiconto 2010 venire a prendere in ufficio dai singoli responsabili queste lettere di trasmissione con le motivazioni? Laddove ci sono, sì, le più delle volte sono richiamate comunque nelle determine, laddove ci sono, sì. Perché non sono in tutte le determine queste motivazioni? Grazie. Per una questione di principio, consigliere Cassata, io con la segretaria abbiamo concordato che tutto il materiale sia sempre a disposizione dei consiglieri comunali, quindi basta che ne fate una semplice richiesta, per quello che è il materiale riassuntivo, quello che giunge in aula, si trova nell'ufficio di presidenza, quelle che sono le determine più specifiche con gli allegati, altri atti, documenti, lettere e quant'altro, si può chiedere alla segretaria che ne farà immediatamente, li farà avere tramite gli uffici che sono quelli indicati da voi. Va bene? Giusto per chiarire. Consigliere La Rosa. Grazie Presidente, una semplicissima domanda che faccio a lei, anche per una questione mia. Sì, sì, sì. Vorrei essere... appunto, vorrei essere tranquillizzato del fatto che le risposte che la dottoressa Vacca ha dato al consigliere Messina siano state messe a verbale. Certamente viene messo tutto a verbale, non solo, se ci sono dei documenti che i consiglieri vogliono lasciare all'ufficio di presidenza sono benvenuti, non solo, ma come può ben vedere vi è anche la registrazione in audio di tutto quello che viene detto qui dentro, quindi credo che siamo nella massima, posso assicurare la massima garanzia su tutto quanto, e anche ormai non possiamo più sfuggire neanche al video, quindi consigliere La Rosa, la ringrazio per la sua precisazione, ma credo che sia, diciamo, sapevo che questa era la sua risposta, però volevo sentirmela dire. Presidente, gradiremmo le, che le sia... garantisco che le delibere vengono attentamente lette e poi firmate dal sottoscritto. Presidente, gradiremmo che sia la dichiarazione del consigliere Messina sia i due prospetti venissero allegati alla delibera e quindi già smesso. Sono già in possesso dell'ufficio. Grazie. Di presidenza, dell'ufficio di segreteria. Che sono stati forniti alla consigliere professoressa Messina. Va bene. Ci sono altre domande, colleghi consiglieri? Domande? Una domanda sola è sempre quella. L'amministrazione ha intenzione di correggere la somma complessiva dei residui attivi cancellati per noi non veritieri, perché inficiati da queste somme che sono ripetute? Signor Sindaco, la risposta è... L'attività di accertamento dei residui, per quello che importa al Consiglio, è quella del mantenimento, è quella che fa gioco nella contabilità dell'ente, non il totale di quelli cancellati che scrive Cefalù News, o scrive l'altra Cefalù, o Cefalù Web, o qualsiasi altro che magari vuole interpretare dalla contabilità. Per noi il rendiconto, così come è stato redatto e presentato prima in Giunta e poi in Consiglio, ha dati veritieri rispetto al mantenimento dei residui nella contabilità, al di là di alcuni aspetti figurativi che sono soltanto tecnici per il ribaltimento della contabilità, non altro. Non ci sono altre. Al momento stiamo riportando dei residui attivi nella contabilità del 2010 che andremo ad analizzare da qui a qualche settimana, che sono residui che vanno mantenuti sotto la responsabilità che si sono presi i responsabili di servizio e con la determina il riaccertamento generale che ha fatto il responsabile del servizio finanziario. Per cui, ripeto, a nostro avviso non c'è nulla da... Rispondo al consigliere Liberto con tanta calma, tanta tranquillità, non c'è nulla da modificare, per noi si può andare tranquillamente avanti senza nessuna difficoltà. Poi per l'aspetto, mi perdonerà il Presidente, ma per l'aspetto collaborativo che io intendevo che provenisse dalla minoranza, Guardate, quando il consigliere Barranco dice che questi correndi conti sono stati utilizzati come battaglia politica, questo caro Gioacchino viene smentito. Sai da che cosa? Quando vedi Calabrese domani, Francesco Calabrese, domandagli se io e lui abbiamo approvato bilanci alla precedente amministrazione, non rendiconti, bilanci di previsione, altro che. Non c'è stato nessun tipo di accanimento da parte nostra sui rendiconti, la realtà è un'altra, la realtà è che la Corte dei Conti ha chiesto, e lo ripeto ancora una volta, a questo Comune, per cui all'ente locale, di avere risultati di amministrazioni anno per anno. Il precedente responsabile del servizio finanziario, che è molto attento questa sera alla trasmissione e che ci sta ascoltando, dovrebbe sapere che quello che non ha cancellato nel 2008 ha poi cancellato nel 2009 e nel 2010. Bene, la Corte dei Conti gli ha detto: quello che è di competenza del 2008 lo devi cancellare nel 2008, quello che è di competenza del 2009 lo devi fare nel 2009, e così di via di seguito negli anni successivi. Mi dispiace che tu dici che noi abbiamo utilizzato per lotta politica, perché non è vero, e se tu ti vai a leggere i verbali dei consigli comunali, fanno richiesta anche verbale, te li do tutti, potrai leggere tutti i miei interventi e quelli degli altri consiglieri comunali, che ti possono servire la sera anche per cercare di conciliare col sonno, perché piano piano ti addormenti, dove vedrai che non è stata utilizzata per lotta politica, è stato caparbiamente purtroppo invece voluto da un assessore chiamato Cocco, di cui tu dovresti ricordare che assieme ad altri hanno cominciato a fare una lotta con la Corte dei Conti che è durata 2 anni. Dopo 2 anni io pensavo, insieme a tutti voi consiglieri, ma mi sbagliavo, perché ancora una volta c'è l'ancien regime e stiamo parlando che qualcuno si deve vendicare, sindaci del passato. Pensavo insieme a voi di portare questo comune all'allinearsi agli altri 8.220 comuni italiani, dove approvare 2008, 2009, 2010 e 2011 e poi lasciarvi liberamente, secondo le responsabilità di ognuno di voi, assumendomi anch'io la mia responsabilità, a stabilire se il Comune è o non è nelle condizioni di andare avanti o di andare al dissesto, cioè di attivare le misure correttive oppure noi. Questo aspetto collaborativo mi aspettavo io. Con questo non è che ti dico che tu dovevi votare favorevolmente, ma non approvare i rendiconti o sospendere questo cammino che stiamo producendo significa mandare, non te lo dico consigliere Iuppa e gli altri consiglieri, giuro non ve lo sto dicendo per un fatto coercitivo, vuol dire mandare il Comune in dissesto finanziario domani mattina. Noi stiamo lavorando insieme a voi, anche bloccando l'attività dell'ente, perché alcuni funzionari si occupano soltanto di questo, per cercare di salvare il Comune. Allora, se è vero come è vero che il consigliere Messina ci crede quanto ci credo io a salvare il Comune, confrontiamoci col bilancio 2012 dal punto di vista politico, ma quello che è la rendicontazione è negli atti, è lì, è in quella fase. Se poi vogliamo dire una sera incontriamoci in consiglio comunale, prendiamo tutti i residui attivi, come diceva il consigliere Iuppa poco fa, e analizziamoli uno per uno per capire questo perché non è stato incassato, la TARSU del 2008 a che percentuale è, la 2009 a che altra percentuale è, quanti devono pagare la luce del 2005, se ci sono atti interruttivi, fare un'analisi di tutti i residui. Io sono disponibile, è disponibile insieme a voi per dire per esempio che Salamonte Paschi Seritti in un anno ci incassa su 3 milioni di residui attivi 42.000 euro, è chiaro che la Monte Paschi Seritti non ci vuole assolutamente aiutare. Questo è l'aspetto, finito, l'aspetto collaborativo che io chiedevo, e non su questi rendiconti ancora aprire favolette che non stanno nelle carte. Te lo dico con tutta l'affettuosità, Gioacchino, vatti a leggere i verbali del Consiglio Comunale e troverai da parte mia la richiesta a Cocco di rivedere i residui dell'anno come gli chiede la Corte con le delibere 148, 168 eccetera eccetera. Grazie Sindaco. E se sono esaurite le domande passiamo agli interventi. Non ci sono altre domande? E mi aveva chiesto la parola per l'intervento il consigliere Riggio. Ne ha facoltà. Prego. Grazie. Prego. Grazie Presidente, consiglieri. Avvicino al microfono. Sì. ho chiesto proprio di intervenire per primo perché vorrei chiarire alcune cose che non attengono, diciamo, ai tecnicismi del bilancio. Io non mi vergogno di dire che, insomma, è difficile per me capire tutte le tabelle, spulciarle tutte, ma penso che sia una cosa comune in tutti i bilanci, al comune, alla regione, alla provincia, il Parlamento, saranno senatori, deputati, hanno sempre approvato i bilanci anche in ragione della fiducia che hanno nei confronti dei funzionari, che bisogna capire quello che è, diciamo, l'essenza del bilancio, non la singola tabella o il singolo numero. Ora, perché io sto dicendo questo? Perché in realtà io ho posto fiducia a questa amministrazione e vedo che l'amministrazione agisce con un certo impegno, così come con lo stesso impegno agiscono i funzionari. Ora io voglio dire questo: negli interventi che si sono susseguiti io ho avuto l'impressione che non è tanto un discorso ora di dire che il bilancio è sbagliato, che ci sono somme in più, quali sono queste somme in più. Si tratta un po' di dimostrare un po' due cose. Da un lato che sostanzialmente l'entità di questi residui non è quella che si vuole far apparire, perché è come se effettivamente si vuole fare una sorta di pubblicità all'amministrazione, perché è arrivata questa amministrazione, ha salvato Cefalù perché non sa mai quanto milioni ci sono, e invece questi milioni sono molto meno. E questo è, diciamo, uno degli aspetti che si tende a far emergere. L'altro aspetto che si tende a far emergere è quello che il consigliere Lapunzina, passato, oggi sindaco, in realtà ha nel tempo strumentalizzato questa situazione dei bilanci passati, perché aveva tutto l'interesse a farsi costruirsi la campagna elettorale su questo, mentre poi oggi, quando li va praticamente a visionare dettagliatamente, si accorge che poi erano stati cancellati dopo anziché l'anno prima, e quindi sostanzialmente non era cambiato nulla, perché la situazione economica reale dell'ente quella era e quella è rimasta. Ora dico, innanzitutto io faccio il ragionamento mio personale. Io è la prima volta che siedo in quest'aula consiliare, questa legislatura è la prima per me, quindi non nutro nessun risentimento nei confronti del consigliere Lapunzina, avverso il quale ho fatto una campagna elettorale diciamo contrario, ho parlato anche io di questo ostruzionismo fatto in consiglio comunale, ma queste sono cose passate. Oggi noi abbiamo concordato un piano di lavoro. Sul piano di lavoro che abbiamo concordato, dico, la vogliamo valutare concretamente il lavoro dell'amministrazione? Ora io mi pongo queste domande, ma perché io non lo capisco realmente. Realmente quale interesse può avere, diciamo, il funzionario a mettere un residuo due volte o a levarlo? Vedete qual è il discorso? I numeri sono numeri. È come i problemi di matematica a scuola. Cioè, un problema di matematica è scritto, lo porti a quaderno e lo porti a correggere. Se il problema è sbagliato, è sbagliato. Ora dico, se sono numeri, se si portano in contabilità, io non ho la competenza di controbattere, non so se il dottore commercialista, penso siano entrambi dottori commercialisti, non so qual è la... non lo so, diciamo, tecnicamente sono quelli che si occupano del bilancio. Io non ho la competenza di combattere, diciamo, per valutare se nella partita deve essere riportato una volta o due volte, però non ho motivo di pensare che una cosa talmente banale possa essere sottaciuta e utilizzata come strumento per affermare chissà che cosa. D'altronde dico, se poi la notizia che emerge, diciamo, è quella che sono stati 4 milioni anziché 1,5 milioni i residui cancellati, dico, tranquillamente chiunque può chiarire in tutti i posti, in tutti i luoghi, sia oralmente che per iscritto, quali sono le singole nature. Anche il consigliere Iuppa ha fatto, per esempio, io non avevo diciamo affrontato questo aspetto, l'ho appreso adesso, ci sono delle parti di competenza, delle parti residue, però chiunque ha la facoltà di dire: signor sindaco, guardi, non è così, scrivo un articolo su Cefalù News, fa tutto quello che vuole. Ma oggi qui il problema è un altro. Oggi io chiedo al consigliere Pessina, per esempio, dico, ci sono tutte queste, diciamo, incongruenze, cioè quali sarebbero le concrete alternative? Dico, l'opposizione, se effettivamente ha fatto un conteggio diverso, è correggere una cifra. Un attimo, voglio concludere, perché diciamo forse che non essendo io bravo in matematica non mi trovo bene a ragionare in questi termini. Io penso che se, diciamo, nella lingua italiana è difficile inserire in un discorso logico un paragrafo che parla di qualcos'altro, ancora più difficile lo è all'interno di una contabilità. Cioè, se la contabilità nasce in un modo e viene sviluppata secondo un determinato concetto, andare poi a inserirsi per cancellare una singola cosa senza inficiare tutto l'intero è praticamente impossibile. Quindi dico, o qui si dice che la dottoressa Vacca evidentemente è in malafede perché mantiene questi residui quando in realtà o li scrive due volte quando in realtà non li dovrebbe mantenere o li dovrebbe scrivere una volta sola, o si dice che la dottoressa Vacca non sa fare i conti, perché non può dirsi semplicemente c'è scritto il residuo in più, perché la dottoressa Vacca dice nelle tabelle c'è scritto il residuo in più perché siccome io me lo trovo a cancellare l'anno precedente poi me lo devo riportare l'anno dopo negativamente, altrimenti conto un mappatta. Cioè è un discorso che pure un ignorante come me riesce a capire. Quindi dico, o è così semplice e quindi io mi convinco dal discorso della dottoressa Vacca e ripongo la fiducia che ho riposto all'inizio dell'amministrazione, oppure devo pensare che la dottoressa Vacca mi sta prendendo in giro perché mi dice una cosa che non è vera, giusto? Però dico, posso pensare che la dottoressa Vacca di fronte a un numero che si vede proprio che è là, cioè mi possa prendere in giro così praticamente? Dico, io non riesco a seguire questa argomentazione. Quindi dico, se noi oggi dobbiamo affermare che in realtà questi 4 milioni non sono residui passivi che c'erano oggi, questi residui passivi già erano stati in buona parte cancellati dalla precedente amministrazione. Questo messaggio l'abbiamo detto, l'abbiamo ridetto e sarà ancora detto 100.000 volte, lo sto dicendo pure io, però come dice il sindaco e come dice la dottoressa Vacca, se la Corte dei Conti ti dà una prescrizione precisa, che è quella, tu questi 5 milioni li hai cancellati, questi 4 milioni, in parte o in buona parte, però li hai cancellati negli anni sbagliati, per favore me li cancelli negli anni giusti. Allora io che faccio? Quei 4 milioni li vado a distribuire e li cancello negli anni giusti. Io sto parlando delle cifre così ora senza andare nel dettaglio, sto facendo un discorso senza parlare di numeri, voglio dire. Quindi che cosa significa questo? Che questa amministrazione non si sta prendendo il merito della somma di 4 milioni, si sta prendendo il merito, o meglio, sta lavorando per fare in modo che i conti tornano. Significa che questi 4 milioni dovevano essere messi l'anno prima, l'abbiamo messi l'anno prima. Se poi dobbiamo dire che già erano stati levati, lo diciamo, l'abbiamo detto, si può scrivere, si può continuare a scrivere. Però questo è un discorso diverso dall'approvare o meno questo bilancio. Posso, Presidente? No, no, posso eventualmente poi, se mi consente. Allora, di interventi, non è dibattito, quindi... Vabbè, allora concludo, dico, concludo. Allora, concludo dicendo che siccome sostanzialmente io riconosco e vedo quella operatività nell'amministrazione che avevo richiesto quando ho dato la fiducia a questa amministrazione, e siccome non ho nessun motivo di credere che ci possano essere dei fattori che possono, diciamo, portare a nascondere quali sono le realtà o quali possono essere, diciamo, la falsificazione di conteggi, che peraltro, come dice il sindaco, si tratta di rendiconti, non è che si tratta di situazioni che politicamente si possono valutare o meno, si tratta di rendiconti. Conseguentemente io concludo e concludo veramente, dico che io voterò favorevolmente per il semplice motivo che rimane per me la fiducia nel lavoro che vedo svolgere. Posso? Consigliere Liberto. Sì. Messina, scusi. Allora, volevo intanto precisare una cosa. Come consigliere comunale è chiaro che non siamo dei tuttologi, però io mi sono sforzata in questi consigli di cercare di comprendere quelle che sono le materie che vengono trattate di volta in volta, quindi di comprenderci nelle cose. Per cui se si parla di urbanistica, se si parla di, abbiamo fatto piani commerciali, abbiamo parlato un po' di tutto, non accetta il fatto che si dica io siccome non me ne intendo non posso, io non me ne intendo neanche io, non sarei in grado domani mattina di andare a fare il bilancio di un comune, ho solo notato, abbiamo notato perché abbiamo fatto un lavoro insieme. Abbiamo notato, insieme con i consiglieri comunali, abbiamo notato che c'erano dei residui che abbiamo l'altra volta cancellati nuovamente nel 2009. Ora non è una questione qui né del funzionario, né il lavoro che è stato fatto, né l'impegno di ciascuno di noi nel rispettare la scaletta, ma qui il discorso è diverso. Io ho detto solo una cosa, uno dei principi del bilancio è quello che deve essere veritiero, per me quella cifra non è veritiera. Io non credo nelle cifre figurate, per me le cifre sono cifre, quindi io non riesco a capire queste cifre figurate, per me è una cosa nuova. Dunque, siccome per me non risponde a uno dei criteri, a uno dei principi fondamentali, io non dico nulla. Io mi allontano da quest'aula immediatamente, tranquillamente, consiglieri comunali, votano quello che votano. A me io era solo un compito, l'esame di alcune carte, di alcuni documenti che ho portato qua in aula. Siccome le risposte per me non sono state soddisfacenti, non mi hanno convinto, io non sono neanche convinta di restare qua dentro. Vi ringrazio. Consigliere Liberto. Grazie Presidente. Purtroppo spesse volte succedono queste cose quando uno intraprende un mestiere che non è il suo. Qualcuno cerca di fare il prestigiatore, ma purtroppo non ci riesce bene, quindi deve fare ancora un po' di scuola. Io sinceramente, signor Presidente, mi aspettavo un momento di buonsenso da parte dell'amministrazione nel minuto in cui noi abbiamo fatto rilevare che c'erano queste incongruenze pari quasi a 900.000 euro che intaccano quella cifra o la somma che poi viene scritta in delibera. Ci aspettavamo che questa amministrazione fosse cortese nel rivalutare la proposta, nell'apporre le modifiche, riportando poi quella che è la cifra giusta, che dovrebbe essere 3.716.156,99, e quindi riportare la delibera corretta per quella azione di verità di cui tanto parla il sindaco. Però siccome abbiamo capito che questa amministrazione non ha nessun intendimento a portare queste modifiche che darebbero verità a una cifra, io penso che sia doveroso anche da parte mia, in quanto capogruppo di questo gruppo, perché anch'io ritengo che dire che una cifra è figurativa, mi viene in mente qualche altra seduta di consiglio comunale dove si è osato dire compatibile ma non conforme. Diciamo, la paragono a questa frase. La stessa la ritengo sia la parola figurativa, quindi per me è lo stesso tipo di ragionamento. Io credo che poco influisca questo aspetto dei consuntivi che state portando qua. La preoccupazione, signor Sindaco, lei lo dovrebbe avere riguardante il dissesto finanziario, principalmente forse per i debiti fuori bilancio, che forse sono proprio quelli che generano il dissesto finanziario e non i residui. E lo so. Quindi, signor Presidente, e chiedo scusa al Consiglio Comunale, all'amministrazione, se osservando e rispettando quella che è la scelta del mio collega consigliere Patrizia Messina, io e il gruppo Grande Sud riteniamo che la maggioranza si può approvare da sola questa delibera e ci allontaniamo dall'aula. Grazie. Mi dispiace, ma ne ha facoltà. Consigliere Barranco, un attimo. Farò ammenda di tutto ciò che ha detto il sindaco questa sera. Cercherò dove ci sia, molto probabilmente vicino a noi, una scuola dove io possa andare a prendere di bilancio. Già la dottoressa questa mattina si era prestata, mi aveva detto, dice, venga un po' nel mio studio che le faccio capire qualche cosa in più. Magari ne terrò conto di quello che mi ha detto la dottoressa e andrò a scuola da lei. Però questa sera una cosa è stata chiara, caro signor sindaco. Lei è vero, ha approvato qualche bilancio con il mio amico Francesco Calabrese, due, d'accordo, dice la verità. E quindi a maggior ragione quello che ho detto io non mi entra nella mia testa e non riesco a capire perché si è arrivato a tanto. Cioè, cocco sarà il male di tutti i mali, ma siccome lei ha citato già all'inizio, quando ha cominciato a parlare quasi, il ragioniere Meli, che questa sera tra le altre cose non è qui dentro e neanche si può difendere. E io avevo pensato di più sul ragioniere Meli, che un uomo che è stato per 35 anni dentro questo ente, sicuramente avrebbe potuto dare l'ultimo suo contributo. Purtroppo se n'è andato. Questa è l'unica pecca che io gli faccio al ragioniere Meli. Perché alla fine dei conti uno i suoi conti li deve pagare. Lui li deve pagare per il lavoro che ha fatto qui dentro. Ma non certo non posso apprezzare le parole dette dal sindaco, perché non credo che il male di tutti i mali è stato il ragioniere Meli, come non credo alla relazione dei funzionari dell'assessorato regionale agli enti locali, i quali non c'è bisogno, signor sindaco, se i funzionari sono così attenti stia tranquillo che sentono, ascoltano, perché hanno piacere di ascoltare e sentire soprattutto quello che dicono i consiglieri comunali che sono espressione del popolo. Noi siamo seduti tutti qui dentro perché rappresentiamo questa nostra città, ivi compreso lei, signor sindaco. Poi si formano le maggioranze, sicuramente si formano le maggioranze, però bisogna vedere da dove si arriva, da dove si arriva e come si forma la maggioranza. Signor sindaco, gliel'ho detto prima, io avevo il piacere e l'altra volta sono stato anche tentato, tant'è che me ne sono andato senza fare la dichiarazione di voto, perché l'altra volta da parte degli amici delle ali, assieme a qualcuno del PDR, si volevano astenere e io avevo pensato, non mi sembra che sia il caso, bisogna andare avanti spediti, come diceva lei. Oggi lei ha una maggioranza compatta qui, la voteranno sicuramente, ma non certo Gioacchino Barranco, perché non ha creduto a quello che è stato detto questa sera qui dentro. Quindi io mi allontano, non perché faccio parte del gruppo Grande Sud, no, signor Sindaco, io sono Cefalù Cambia, la porto avanti con onore. Cefalù Cambia, non se lo dimentichi, signor Sindaco, io provengo di quelle fila, non mi posso fregiare del suo 30%, mi fregio del mio 10-11%, perché ne rappresento 670, caro signor Sindaco. 41 non lo so, io i conti non li ho fatti, lei i conti li ha sempre in mente con i numeri, lei ci sa fare bene, per cui... Ah, il suo personale ho un altro discorso, e lei però rappresenta sempre il 30%, non ce lo dimentichiamo, il 70% ha votato per altri, che magari oggi quegli altri si ritrovano assieme a lei, in quella maggioranza, e già abbiamo discusso tanto, e le ricordo un'altra cosa, signor Sindaco, vede questi strumenti che oggi tutti abbiamo a disposizione, domani mattina diranno se lei ha il consenso di quello che ha detto questa sera o se ce l'hanno questi cinque consiglieri comunali che questa sera sono usciti. Chiedo scusa e mi allontano purtroppo dall'aula. Va bene. Consigliere Scialabba. Il mio intervento sicuramente non è sui numeri quanto su una considerazione personale, visto che anch'io ho dei ricordi dal 2007 seduto in questo, da questa parte, e mi riferisco specialmente al consigliere vicepresidente Riggio, del suo discorso un po', diciamo, bonario, per dire che siamo di fronte a un bilancio per poter andare avanti, per poter affrontare le difficoltà che il Paese in questo momento si trova. Proprio per questo motivo, e il Sindaco non me ne vuole male, eravamo sedute da questa parte nel 2007 e quando c'era il bilancio, ci fu il bilancio, noi tutti coerenti abbiamo bocciato il bilancio, il primo bilancio del 2007. L'hanno approvato, se si ricorda, il Sindaco, soltanto la maggioranza. Dice, ora lavora perché c'è un bilancio. Successivamente, negli anni, che lei forse non ricorda, io lo ricordo evidentemente, quando si parlava del rendiconto e di bilancio, fino al 2000, quando c'era, io ero ancora all'opposizione, appena si parlava di bilancio succedeva come del resto sta succedendo, perché i numeri non appagiavano, si dice al mio paese, evidentemente. Ora stasera, qual è il problema? Noi non ce ne andiamo. Riflettiamo sul voto, evidentemente che ognuno di noi è responsabile proprio per dimostrare che noi vogliamo dare qualche cosa alla città, indipendentemente, perché è un fatto politico, un fatto anche di opinione, un fatto anche di riflessione, evidentemente. E questo lo vorrei puntualizzare. Poi nella votazione vediamo se si poteva sospendere, come ero pure d'accordo, per vedere se di aggiustare, perché io sono uno di quelli che mette pace in famiglia, è mia abitudine questa qua, forse è il mio gene familiare che dice di mettere pace sempre. Se si poteva fare qualche cosa, sospendere e sistemare qualche carta, avevo pure il piacere che anche i colleghi del Grande Sud potessero partecipare, non dico alla votazione positiva, ma anche astenendosi o votando negativa, ma essere presenti. Mi dispiace per questo. Io me ne assumo le mie responsabilità, però vorrei ricordare, caro consigliere Riggio, che in passato, indipendentemente dalla posizione politica che ognuno di noi, qua da questa parte c'era una, e l'ha detto pure il Sindaco, o un testè, mi pare, che quando si parlava di la colpa, io non voglio entrare, se fu di Cocco, di Meli, del ragioniere, non voglio entrare, perché ognuno, se è colpa ne ha, si passa la mano sulla coscienza e risponde poi di fronte agli organi superiori, agli organi competenti. Questo solo, grazie. Grazie consigliere Scialabba. Chi vuole intervenire? Consigliere Pizzillo. Grazie Presidente, io sicuramente sarò meno teatrale. Inizio con una premessa brevissima sul fatto che a mio avviso un amministratore pubblico, che sia un consigliere, che sia un sindaco, deve rappresentare la totalità dei cittadini. Per questo non mi trovo d'accordo col consigliere Barranco quando dice di dover rappresentare i suoi 600 elettori, o il sindaco dover rappresentare il suo 30%, che poi è un 41%. Io penso che il sindaco è il sindaco di tutta la città, il consigliere Barranco deve fare il consigliere comunale di tutti i cittadini. Detto questo, ho sentito dire in questa lunga discussione che i bilanci non sono stati, utilizzati in questi anni in maniera politica, come strumento di battaglia politica. Mi chiedo, e chiedo anche a tutti voi, se questo atteggiamento non è utilizzare un bilancio in maniera politica. Io penso che oggi sicuramente un risultato questa fuoriuscita l'ha avuto, ha guadagnato i titoloni dei giornali di domani, probabilmente anche la sorpresa dei cittadini che ci ascoltano da casa. È stato un colpo di teatro, per questo dicevo che io sarò meno teatrale. Io penso che un consigliere comunale si debba prendere le sue responsabilità, cioè ha la facoltà di votare favorevole o di votare contrario o di astenersi. L'essersi alzati penso che sia una grande mancanza di presa di responsabilità da parte dei consiglieri di Grande Sud, che sono diventati forse 5 da oggi in poi. E veramente mi preoccupa questa cosa e mi rammarica tanto, perché credo che questa è stata sempre un'aula, almeno in queste prime sedute, dove c'è stato tantissimo equilibrio, si è riusciti a discutere in maniera serena, in maniera equilibrata, in maniera anche dura a volte, però non si era mai arrivati a un atteggiamento del genere. Io spero che questo atteggiamento possa essere anche rivisto dai colleghi consiglieri che se ne sono andati, però sicuramente penso che sia più importante guardare all'interesse della città nel suo complesso, anche votando contro. Dico, qua nessuno punta la pistola a nessuno, dico, si può tranquillamente votare contro, però la realtà è un'altra, è quella che poi di fronte alla città bisogna spiegare perché si vota contro, perché si interrompe un percorso che speriamo riuscirà a portare il Comune a salvarsi dal dissesto finanziario. Dico questo semplicemente e anticipo anche la mia dichiarazione di voto, Presidente, così faccio due in uno, dicendo che domani i giornali saranno pieni di questi titoloni, scatterà il caso dei consiglieri che se ne sono andati sull'Aventino. Però questi consiglieri dovranno prendersi una responsabilità nei confronti della città, cosa che non hanno saputo fare questa sera, probabilmente dovranno prendersela più avanti. Io mi auguro che lo faranno con serenità. Io penso che l'amministrazione stia proseguendo nella giusta strada, stiamo rispettando i tempi. Penso che, posso valutare le obiezioni dei consiglieri di opposizione, ma penso che poi il succo del discorso è un numero. Possiamo girarci attorno alle questioni, ma il succo è un numero. Qua, come diceva bene il consigliere Riggio, qua non è una gara a quanti residui stiamo togliendo, e se sono tanti allora facciamo bella figura. Qua è un problema chiaro, cioè la Corte Conti ci ha chiesto delle cose, noi le dobbiamo portare a termine, abbiamo un cammino forzatissimo su questa vicenda. Mi rendo conto che probabilmente l'atteggiamento dei colleghi consiglieri che se ne sono andati è anche inficiato da situazioni esterne che si verificheranno probabilmente a breve, e questo mi dispiace, perché avrebbero dovuto provare quantomeno in quest'aula a scindere le due questioni. Ripeto, io voterò favorevolmente all'approvazione di questo rendiconto, perché sono fermamente convinto del lavoro dell'amministrazione e sono sicuro che questo è un altro tassello verso quell'operazione chiarezza che ci ha chiesto la Corte dei Conti, e verso, mi auguro, l'evitare di andare al dissesto finanziario per il Comune di Cefalù. Grazie consigliere Pizzillo. Consigliere Iuppa. Il mio intervento all'inizio del Consiglio lo avevo strutturato in maniera diversa, tuttavia determinati colpi di scena mi impongono di deviare un po' il percorso, però ci vorrei rientrare, perché non lo vorrei, lo ricordo a me stesso, lo ricordo a tutti, il tema di questa sera è il rendiconto del 2009, quindi ci vorrei tornare. Però devo dire una cosa, io sono abituato da ex sportivo, dico ex perché la stazza oramai mi dà ragione in questo senso, sono stato abituato a non abbandonare mai il campo, anche quando sapevo che possibilmente la partita era già persa prima ancora di iniziarla, anche quando già sapevo di scontrarmi possibilmente con un avversario più forte di me. In questo caso l'avversario più forte sono i numeri, possibilmente questa maggioranza stasera approverà il rendiconto del 2009, ma io il campo non lo abbandono perché ritengo di avere una responsabilità nei confronti non solo dei 228, che sempre ringrazio e ringrazierò, che mi hanno eletto, ma ritengo di avere una responsabilità nei confronti dell'intera città. E ritengo che al di là delle questioni politiche che possiamo sollevare in quest'Aula, l'ho sempre detto, l'ho detto sin dal comizio di campagna elettorale, noi rendiamo un servizio alla città. Io penso che i cittadini non si aspettano da noi un abbandono dell'Aula, un sottrarsi alle nostre responsabilità. Penso che si aspettano delle scelte ben precise, in un senso, nell'altro, poco importa. Io penso che chi prende una scelta deve essere anche in grado poi di saperla motivare e giustificare, quindi chiunque noi prenderà una scelta in un senso o nell'altro, in quest'Aula la motiverà alla città, ai suoi elettori e a chiunque gliene chiederà spiegazione. Detto questo, penso di poter parlare a nome dell'intero gruppo, lo ha già fatto pure il dottore Scialabba, non abbandoneremo l'Aula, non ci sottrarremo al voto, voteremo e come andrà, come si dice in siciliano, chi ducanna ci batteamo, insomma, non ci sottraiamo a questo. Al di là delle note di colore, voglio dire, io condivido quello che dice il consigliere Riggio quando dice: a me non interessa il passato, non faccio paragone con il passato, io non c'ero, io non so nemmeno se l'attuale sindaco abbia mai abbandonato l'aula consiliare come forma e strategia presa, non lo so, e le posso dire una cosa, non mi interessa assolutamente, Presidente, proprio non mi interessa, non muovo le mie scelte in forza di quello che ha fatto o non ha fatto il signor sindaco. Poi mi dicono che sarò possibilmente un uomo della maggioranza prestata dall'opposizione, mi prendo pure questo, le spalle sono larghe, quindi contengono questo ed altro. Io muovo le mie scelte, signor Presidente, soltanto ponendomi un problema di coscienza nei confronti della città. Ed è proprio per queste ragioni che devo dire, mi dispiace, ora ritorno sulla strada del rendiconto del 2009, che non mi posso ritenere soddisfatto ancora una volta delle risposte che mi sono state date alla dottoressa Vacca e nemmeno da quelle del sindaco che ha cercato di intervenire e cercare di dare una risposta più, diciamo, decisa e più completa. Non mi posso ritenere soddisfatto quando chiedo a che punto sono i residui, il sindaco mi risponde: ma siamo lenti, siamo in un momento di discussione. La mia domanda lui stesso l'aveva compresa in maniera molto più precisa. Io volevo una cifra, la dottoressa Vacca una cifra non me la può dare, perché giustamente mi dice: sono soltanto responsabile del servizio tributi, quindi tutt'al più le posso dare la cifra che riguarda il mio servizio, nemmeno quella mi ha data. Tuttavia, evidentemente, dico, questa è la fotografia della risposta di stasera, non ci sto mettendo niente di politico e niente, è la risposta e la fotografia della risposta data dalla dottoressa Vacca. Non mi convince nemmeno l'intervento ad adiuvandum del Fiasconaro, chiedo scusa, quando mi dice che la legge non fa distinzione fra residuo attivo e accertamento della competenza o impegno di competenza. Non è vero, la legge la distinzione la fa, la legge, penso si riferisse al TUEL, all'articolo del TUEL, dice chiaramente che i residui attivi costituiscono entrate accertate non riscosse al termine dell'esercizio, che è una cosa ben diversa, penso, pur non essendo un tecnico, anche qui condivido col collega Riggio la considerazione che i numeri tutto sommato tanto non mi appassionano perché non li capisco, però questo più che un numero è un principio normativo, qualcosina di principi normativi, insomma, penso di capirla. E quindi non è la stessa cosa dire cos'è un residuo attivo e dire cos'è un accertamento in corso d'anno, quindi un accertamento di competenza. E quindi ribadisco che non mi può assolutamente convincere il dato che viene portato oggi nel rendiconto del 2009, quando mi viene detto che sono stati accertati e cancellati 4.400.000 errotti di residui attivi. Non mi convince il dato quando mi si dice che sono stati cancellati residui passivi per 4.510.000 errotti, perché in queste cifre, purtroppo, dico purtroppo perché il dato poi diventa poco genuino, ecco perché purtroppo, sono contenute somme, cifre, dati che non sono residui, che non sono residui tecnicamente, che non sono residui ai sensi proprio del testo unico degli enti locali. Ecco perché io ritengo che il dato che ci viene offerto è un dato certamente poco genuino. Più genuino sarebbe il dato, e quello secondo me sono i residui da cancellare, se prendiamo il conto di bilancio. Mi dispiace purtroppo che il consigliere Barranco è andato via. Io condivido quando lo dice, la gente non ne capisce niente purtroppo di quello che diciamo spesso, perché sono argomenti estremamente tecnici, ma purtroppo argomenti tecnici trattiamo. Per quanto li vogliamo semplificare, per quanto ci dobbiamo sforzare di farli capire alla gente, poi arriviamo a un certo punto in cui per forza dobbiamo parlare con dei numeri e con dei dati così tecnici che la gente, tutto sommato, voglio dire, se ci ha votato dovrebbe fidarsi anche di quello che poi diciamo, evidentemente, perché se ci ha votato ci ha riconosciuto un minimo di competenza a saper leggere quantomeno le carte meglio di altri. Se io prendo il conto di bilancio e gestione delle entrate, il sintetico, e prendo l'ultima pagina, secondo me, mi sbaglierò, ma in ogni caso, certamente, se mi sbaglio, in ogni caso non condivido quello che ha sostenuto la dottoressa Lacca e quello che ci vuole oggi proporre l'amministrazione per votare. Prendo il dato del residuo, che è il residuo totale accertato nel 2008, è dato finale del 2008 e diventa dato iniziale per l'accertamento del residuo per il 2009, ed è 23.641 eccetera. Poi, sempre all'ultima pagina, sotto la colonna accertamenti, vado a scoprire qual è l'effettivo dato dei residui attivi accertati, ed è 22 milioni e rotti, per ottenere un 1.038.359,72. Secondo me, e ad avviso evidentemente di uno che non è un tecnico, ma insomma, qui non parlo di numeri, parlo sì di numeri, ma più che altro parlo di metodi per arrivare poi a un numero. Questo secondo me è il dato del residuo attivo che deve essere cancellato e che va cancellato dal bilancio del 2009. E nessun altro dato. Stesso discorso faccio per i residui passivi. Prendo sempre l'ultima pagina, questa volta il conto di bilancio e gestione delle spese. Parto sempre dal dato che è l'accertamento del residuo passivo del 2008, che diventa dato iniziale per l'accertamento del residuo del 2009, ed è 22.307.000, eccetera. Vado nella colonna degli impegni, questa volta, perché non sono entrate, sono spese, quindi vado nella colonna degli impegni, e trovo un 19.669.000 rotti. Poi vado nella colonna dei minori residui o economie e trovo 2.638.194,61. Questo per me, a mio modestissimo avviso sempre, dottoressa Vacca non me ne voglia, questo secondo me è il dato che attiene ai residui passivi per il rendiconto del 2009, e nessun altro dato. Non è i 4.400.000 euro eccetera dei residui attivi, non è i 4.510.000 dei residui passivi. Quelli purtroppo sono dei dati, uso un'espressione equilibrata, poco genuini, e che non mi possono convincere. Per cui, come ha fatto il consigliere Pizzillo, colgo la palla balza e faccio due in uno. Oltre alla discussione politica faccio pure una dichiarazione di voto. Certamente non voterò a favore, certamente non mi allontanerò da quest'aula, Presidente, certamente non voterò contro, proprio, e lì ci metto la questione politica. Votare contro significherebbe fare passare possibilmente un messaggio alla città secondo il quale il sindaco Lapunzone e i suoi consiglieri vogliono il bene della città, il consigliere Iuppa no, il consigliere Iuppa e i suoi colleghi di gruppo, siccome votano no, vuol dire che vogliono il dissesto finanziario della città. Non è così, vorrei tranquillizzare i cittadini in questo senso. E allora, certamente non ci possono essere propinati dati che per noi non sono fedeli, non possiamo votare, ci asterremo dalla votazione, e quindi poi lasceremo ai voti della maggioranza la responsabilità eventualmente di decidere o meno se andare avanti nel percorso di recupero finanziario dell'ente. Grazie consigliere Duppa, cortesemente il microfono. Consigliere Tumminello. Grazie Presidente, sembra un po' strano questo mio intervento, visto che questa sera mi sono trovato ad entrare in quest'aula mentre altri ne uscivano. La cosa mi è sembrata abbastanza curiosa. Cioè, ripeto per lei Presidente, entrare in quest'aula mentre altri ne uscivano questa sera è stato abbastanza diciamo curioso, ma tant'è, anche questo fa parte evidentemente del teatro della politica. C'è chi questa sera ha deciso di recitare una parte che è stata quella di lasciare il palcoscenico, scelta che, come diceva il mio collega Nicolò Pizzillo, non mi trovo a condividere. Condivido pienamente quanto diceva il consigliere Iuppa, le partite bisogna giocarle diciamo sul campo. Ma lasciando stare questo, il consigliere Iuppa nel suo intervento, che ho ascoltato con passione come sempre e con interesse, non mi convince quando dice io prendo il sintetico del conto del 2009, vedo una cifra, per me quelli sono i residui attivi che vanno cancellati. Prendo il sintetico del 2009, vado a vedere i residui passivi, quella per me è una cifra che va cancellata. Mi chiedo, ma su cosa hanno lavorato gli uffici in tutto questo tempo, se bastava semplicemente fare questo tipo di raffronto? Per questo ritengo che l'operazione e il lavoro che gli uffici hanno compiuto sia un'operazione che dal punto di vista tecnico magari noi tutti non riusciamo a comprendere fino in fondo, ma che è arrivata comunque ad un risultato che è diverso dal risultato che c'era in precedenza. E io da quella considerazione credo che noi dobbiamo partire. Su quel risultato la Corte dei Conti ha fatto dei rilievi, si è espressa negativamente, obbligandoci ad un riaccertamento. Quindi noi qui stasera, così come anche l'altra volta, così come faremo nelle prossime sedute, non ci stiamo passando dei capricci, né noi né i nostri uffici. Stiamo lavorando per un riaccertamento di un dato che proporremo per quello che è, fidandoci del parere che i collegi dei revisori hanno dato e che tecnicamente dice che il parere è favorevole su questo rendiconto, così da riapprovare. Di conseguenza credo che per senso di responsabilità, altrimenti non avrebbe senso davvero, noi questo rendiconto lo dobbiamo riapprovare. Abbiamo cercato e ci sforziamo di rispettare nei tempi e nei modi stabiliti le prescrizioni che la Corte dei Conti ci ha dato, e quindi credo che questa sera, con la massima serenità, così come la massima serenità abbiamo avuto la scorsa volta, io personalmente, insieme ai miei colleghi, penso procederemo a riapprovare questo rendiconto. Grazie Presidente.